Buonasera a tutti, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Alma 101.9, mentre sono le 21:04 minuti e le mie amiche che sono qui in studio non riescono a sentire dalle cuffie, ma io spero che voi sentiate. Allora, intanto sentiamo le vostre voci. Ciao Rosanna, Io come ti va? sento Mi benissimo, Anna senti? Maria. Sì, Bene. forte e chiaro. Ciao Rosanna, buonasera. Buonasera Cristina, Ciao a ciao. tutti. E buonasera a Ciao Fiorella, Rosanna, ciao ciao. sorella, ciao, grazie a tutti. Io sento solamente da una parte sola. Va bene, d'accordo. Quindi adesso scriverò la nota che le cuffie dello studio, ahimè, non funzionano. Non funziona nessuna, giusta? Giusto? No, nessuna. Nessuna cuffia. Va bene, allora, Davido, Irene, se siete in ascolto, sappiate che le cuffie non funzionano. Dunque, siamo arrivati al 14 di dicembre 2015. Come dicevo, sono le 21, adesso sono già le 21:05 e questa sera ci troviamo con Anna Maria e Cristina, ma con la nostra amica Fiorella, che ogni tanto viene da queste parti, in questa trasmissione prenatalizia, perché anche se c'è ancora un lunedì prima di Natale, che è il lunedì 21 dicembre, in realtà noi faremo filone, ci scuserete, perché molti di noi saranno in vacanza e quindi non verremo per la trasmissione dei colori dell'anima. Allora, Anna Maria, ti stai preparando a Carissima, mi Natale tu? sto preparando? Sì, mi sono messa a dieta prima del Natale. Vabbè, quindi questa è una buona Non è vero, è una preparazione. bugia, ho Ah, detto una grossissima bugia. va bene, Sto cercando d'accordo. di Va convincermi. bene. Tu, Cristina, invece? Ti stai preparando? Io mi sono messa a dieta, sì, Ah, ti sei però non messa? Infatti, funziona. non le abbiamo Perché? detto che è dimagrita. Eh? Anna Maria, non ti abbiamo detto che sei dimagrita? No, infatti, non funziona. Ma perché in macchina era buio, non l'abbiamo vista Ah, va bene. bene. Vabbè, Fiorella, tu invece come ti stai preparando? Con gli addobbi natalizi, tanto per Io cominciare? ho fatto Mi hai tutto. mandato un po' di foto degli addobbi a casa tua? Sì, su WhatsApp, e tra l'altro ho scritto la letterina a Babbo Natale chiedendo che qualcuno si metta finalmente quel Facebook, così non siamo obbligati a mandarle tutte quante le Va bene, fotografie. chissà chi sarà questo qualcuno, questa qualcuna Non lo so, non lo forse? so, non lo so. Avresti visto anche la vignetta, dice, per la prova costume non ci siamo, ma per la prova dei panettoni ci siamo. Dunque, niente dieta, Per a quella Natale si siamo può. no, no, quella l'ho Preparatissimi. vista e l'ho pure capita. Eh? Ecco, quella l'ho vista e l'ho pure capita perché me l'hai mandata su E l'altra che WhatsApp. non l'ha capita. Va bene. Allora, ma a parte non essere su Facebook, cosa mi perdo di questo Natale, dai? Ma non lo Cioè. so cosa ti perdi, ma io sto, diciamo che rimanendo qui perché i ragazzi non si possono spostare, non sono in questo stress, questa foga di Natale di preparare l'albero. Cioè, noi sappiamo che a Natale, cioè. In Italia iniziamo a preparare l'albero di Natale l'8 dicembre, giusto? Sì. Però vivendo qui dovremmo essere pronti per le feste già dal 5 dicembre, dunque da San Nicola. Io poi che ho vissuto in Austria dovrei essere pronta dal 25 novembre, perché è il giorno Addirittura. in cui il 25 novembre si aprono tutti i mercatini di Natale, soprattutto a Vienna. Dunque c'è un'area festiva in cui io inizio. Forse dal giorno dopo di Pasqua, non lo so, a questo punto mi sto preparando. E quest'anno un po' perché non troviamo il cartone del presepe, dunque non troviamo altre cose, allora me la sono rigirata alla frittata, come si dice, e dico prendiamoci questo Natale molto calmamente, molto cool. Quello che trovo, trovo, quello che metto, metto, no? Allora ho iniziato a gustarmi le decorazioni di San Nicolà, poi abbiamo fatto l'albero, il presepe, non lo so se me lo porta Gesù bambino, me lo fa ritrovare, non so in Non si cantina, in trova più. garage, dove, non lo so, però l'anno scorso avevo ricomprato i re magi perché si erano persi, cioè da Betlemme a casa mia, non so che strada avessero È una lunga fatto, strada, eh. e si sono ripersi un'altra È che volta. si è spenta la stella. La stella? Si è spenta la stella E cometa, non io, trovano la strada. vabbè, Non con si tutto, vede. eh sì, c'ha ragione, sì, li ho ricomprati e si vede che sono andati, non lo so, a fare il Natale a Marrakech da quelle parti. Comunque no, sì, mi sto preparando, ci stiamo preparando. Bene. Va bene, allora, intanto io proporrei di mandare un brano musicale, ma nel frattempo vi pregherei di pensare ad un colore per questa sera. Mm. E non mi domani... dite verde come là il colore dell'albero di Natale o che ne so. Rosso. Datemi... Rosso. Uffa, anche rosso, è sempre rosso. Datemi un altro colore. Ma è Natale. Ma pensateci, pensateci. Ci non pensiamo, me lo dite adesso. Ci pensiamo, rosso bene. Vermiglio, così è come vabbè. Il coso del fucsia. Vabbè, allora ci ritroviamo fra pochi minuti, quindi mi raccomando rimanete con noi sui Colori dell'Anima, saremo con voi fino alle 22 su Radio Alma 101.9 e per chi non ci ascolta direttamente dalla radio abbiamo anche un sito che è radioalma.eu dove potete ascoltarci in diretta. A fra poco! Allora, eccoci ritornati in diretta, mentre sono le 21:14 su Radio Alma 101.9 con i Colori dell'Anima. Dunque, intanto volevo chiedere a Cristina, che è un po' di tempo che non viene qua in radio. Come sì, mai? Ci sono, ci sono. Hai un sacco di belle attività. Sì, sono sempre impegnata. Sei molto impegnata. Piena. Va bene. Comunque, insomma, speriamo, anche se non regolarmente, che tu possa venire ogni tanto con noi sì. in radio, perché insomma. From time to time. From time to time, exactly. Sì, con piacere. Va bene. Allora, tu, Cristina, hai un po' di ricette, però prima di darti la parola per le ricette, volevo chiedere un po' dell'avvento. Ah, a proposito, il colore, definiamolo una volta per tutte, dai. Io te l'ho detto, ma l'avete bocciato. Dai, ridimmi. Il rosso. Rosso e basta. Rosso così è banale, dimmi. Io dico oro. Tu? Oro, sì. Oro come oro, incenso e mirra? No, oro come le decorazioni natalizie. Beh, io vedrei benissimo una palla dell'albero con rossa, con dei puntini oro e con un fiocchetto verde. Facciamo niente, rosso verde ce lo dobbiamo mettere, Rosanna. No, il verde sì. No, eh. Facciamo rosso e oro, dai, allora. Rosso e oro, sì. Però il verde oro è quello rosso. Del rischio. Il verde è quello del rischio. Va bene. Rosso, verde, oro. Pungitolo, oro, verde e rosso. Vabbè, d'accordo. Ok, aggiudicato. Diventa sempre più difficile sì, avere diventa. Un solo colore. Infatti. All'inizio infatti. C'era ogni puntata un colore. Adesso è sempre un misto di tutti. Io non vedo la neve, spera che ci sia un bianco Natale. Vabbè, allora dai Fiorella, vabbè. Raccontaci dell'avvento. Allora l'avvento, ci siamo in pieno quasi, no? Cioè ci siamo quasi alla fine tra l'altro, dunque l'avvento. Vorrei parlare prima dell'avvento, come lo vedono i bambini, no? Perché è venuto l'avvento, alla fine degli anni 800 in Germania. Sempre da quelle parti, c'era un bambino che chiedeva alla mamma ogni giorno quando è che si avvicina Natale, come si avvicina Natale. Il bambino si chiamava Gerhard Lang. Dunque, la mamma, diciamo, stanca un pochettino di questi continui quando arriva, perché il bambino, naturalmente, come tutti i bambini, aspettava il giocattolo, inventò questo calendario dell'avvento, cioè fece questa piccola... un quadrato, mise delle piccole pochette e dentro la pochette ha messo il cioccolatino. Il signor Lang, nei primi del Novecento, diventato adulto, si ricordò del regalo della mamma e lo realizzò in maniera più industriale ed è quello che noi vediamo come calendario dell'avvento. Però c'è l'avvento quello spirituale, giusto? Delle quattro candele, anche lì... Le quattro domeniche. Ma anche lì la tradizione nasce in Germania. E nasce in orfanotrofio. Scusate, fatemi leggere il nome perché... allora, era il pastore Wickern. Lui lavorava in questo orfanotrofio, ma anche casa che accoglieva i ragazzi in difficoltà. E aveva intenzione di dargli un Natale anche a loro, un Natale soprattutto di luce, giusto? Allora lui prese una grande ruota di carro e su tutto intorno alla ruota di carro mise 24 candeline. La prima corona dell'avvento, infatti, sono 24 candeline. E le prime famiglie che usarono questa corona dell'avvento misero la ruota del carro con 24 candeline. Poi si arrivarono a quattro candeline. quattro grosse candele che vengono accese ogni domenica. Allora, che cos'è che simboleggiano queste candele? La prima candela è detta del profeta, perché ricorda le profezie sulla venuta del Messia. La seconda candela è detta di Betlemme, per ricordare la città in cui è nato il Messia. La terza candela è detta dei pastori, i primi che videro ed adorarono il Messia, poiché nella terza domenica d'Avvento la liturgia permette al sacerdote di utilizzare i paramenti rosa al posto di quelli viola, tale candela può avere un colore diverso dalle altre tre. La quarta candela è detta degli angeli, i primi ad annunciare al mondo la nascita del Messia. Dunque, e noi abbiamo anche, cioè io che sono nata a Roma, la corona dell'Avvento e anche il calendario dell'Avvento, quando ero piccola, non esistevano, non era una tradizione di tutta Italia, giusto? In Italia però, nella parte Alto Adige, dunque la parte di influenza austro-ungarica, la tradizione della candela e del calendario è molto sentita. Ora ci siamo portate tutte queste tradizioni. Per me l'Avvento, non so se anche per voi, erano i zampognari, ve lo ricordate? Cioè io sapevo che era arrivato il periodo di Natale perché c'erano i zampognari, cioè con la canzone piva piva, no? E loro, i zampognari, partivano da Isernia, da Campobasso, da quella regione, e salivano fino a Milano, ma soprattutto a Roma. Dunque per noi era questo il calendario dell'Avvento, no? Era una canzone ogni giorno dello zampognaro che passava sotto casa. Non so se per voi è la stessa cosa, non lo ricordate, no? No. No, no, non tanto. Oh ragazzi, io non è sì, che io sono vostra nonna, cioè... No. No, ma le ricordate? Sì, però io sono più anziana di queste due donzelle. Sono più anziana di queste due donzelle, quindi me lo ricordo. Tu te lo ricordi? Certo che me lo ricordo, che venivano sì nelle settimane precedenti il Natale e andavano a piedi di casa in casa suonando ogni volta, quindi li si faceva entrare, loro facevano la musichetta e poi gli si offriva, che ne so, i lupini, le castagne, tutto quello che... Di solito la sera veniva sempre qualcuno in casa, perché anche questa poi era una caratteristica, diciamo, della vita di un po' di anni fa. Sì. E quindi uno aveva già tutto pronto per accogliere gli zampognari o altri potenziali visitatori. Comunque sì, ed era veramente molto... Tra l'altro venivano alle volte anche molto tardi, noi eravamo andati a letto e quindi poi tutta la famiglia che si svegliava per sentire questa musica. Sì, sì, era bello, devo dire. Cosa soffrì in Abruzzo? Le ferratelle, quelle che vi state mangiando adesso. Beh, se uno le aveva fatte, sì. Sì, perché erano dei dolci di festa, dunque si iniziavano a preparare. Dunque era questo un pochettino il nostro calendario dell'Avvento. Io penso che almeno personalmente il calendario dell'Avvento l'ho conosciuto quando sono venuto la prima volta qui a Bruxelles, alcuni anni fa, e ho visto questo calendario che mi ricordo faceva l'Unicef con un anellino dentro, qualche cosa. Adesso tutti i cioccolatini, a me invece piaceva quello con le sorpresine, con le cose dentro, dunque... No. Ah sì? Sì, sì. No, è vero, anch'io l'ho scoperto, è una caratteristica del nord. Sì, dell'ultima candela, giusto? Sì. Ecco. Dunque. Va bene, anche perché poi c'è il Natale, quindi sì, l'Avvento. Sì, la domenica prima di Natale. Però voglio dire, l'Avvento, diciamo, presentato con le candele, ma da un punto di vista religioso l'Avvento si festeggia dovunque. Cioè in tutte le nella religione le chiese, sì. Cristiana sì. L'Avvento sono però lo sai che a Milano comincia due domeniche prima? Per il calendario ambrosiano? Credo di sì, cioè rispetto a noi quando sì. Nel resto d'Italia è la prima domenica di Avvento, a Milano è già la terza, quindi loro ne hanno sei prima di Natale. Sì, il calendario ambrosiano è diverso. Va bene, d'accordo. Allora, con questa puntata oro rosso e verde vi lascio un attimo, mandiamo un altro brano musicale e ci ritroviamo fra pochi minuti. Allora, eccoci qua di nuovo in studio con questa trasmissione natalizia del 14 dicembre 2015 e come appunto dicevamo prima è l'ultima trasmissione dei Colori dell'Anima prima di questo Natale 2015. E oggi è venuta con noi Cristina, che che proprio perché è stata assente per un po' di tempo, adesso ci parlerà un po' delle tradizioni culinarie pugliesi, sì, in occasione del Natale. Certo, perché a Natale si mangia sempre, si mangia tanto, non è vero? Troppo. Invece prima non si mangia prima mai. Prima del Natale si sta dietro, ci si prepara spiritualmente, ci si purifica. E poi a Natale si festeggia, si mangia allegramente. No, io volevo parlare delle tradizioni culinarie perché nella mia famiglia abbiamo sempre fatto le cose dolci, come si dice in dialetto, cioè i dolci di Natale con tutte le donne della famiglia, nonna, mamma, zia, cugina, eccetera, eccetera. E si inizia, normalmente si inizia da Santa Lucia o anche l'8 dicembre si cominciano a preparare queste tavolate di cartellate e si passa una giornata, due giornate così a friggere, a cucinare, e quindi per me questa è la simbologia del Natale, questo che mi ricorda di più il Natale. E quindi se volete sapere per esempio uno di questi, lo vogliamo sapere. Allora, prima di tutto le cartellate sono proprio il dolce simbolico del Natale. Sono fatte di una pasta dolce che è simile alla pasta per le tagliatelle, però è dolce, e si fanno a forma di rose. Quindi si fa tutto un lavoro, si stende la pasta molto sottile e poi si tagliano delle strisce si tagliano delle strisce tutte uguali di circa 2 centimetri e poi si pizzicano, e la striscia si pizzica così la pasta si unisce fino a formare una rosa. Caspita, e poi, che lavoro! Sì, è un lavoro che ci vuole tempo per farlo e soprattutto. Ecco, esatto, sì, adesso abbiamo anche le figure, non lo potete peccato vedere, che abbiamo non anche siamo le in figure. Televisione, ma abbiamo la fotografia. Sì, e poi allora, si preparano e si stendono, e la cosa che io mi ricordo sempre di quando ero bambina è che si prendono dal tavolo e si mettono sulla mano, e bisogna fare attenzione a non farle rompere perché sono molto fragili. E quindi mi ricordo che quando ero piccola rimettevo tante di queste cartellate sul braccio fino al gomito per trasportare dal tavolo fino alla cucina dove si friggono. Quindi poi si mettono nell'olio bollente, di solito olio d'oliva, si fanno friggere, quindi dopo diventano come dei biscotti, e poi si intingono nel vino cotto. Ah, nel vino cotto? Sì. Che il vino cotto, non so, c'è anche nelle Marche, sì. E quindi, insomma, si intingono, noi diciamo ingeleppaio. Ingeleppaio è il verbo. Ingeleppaio vuol dire proprio intingere, no? Quindi si mettono dentro, si mettono capovolte dentro il vino cotto, poi si rigirano così tutta la salsa, tutta la crema, insomma, di questo vino scende e si colora tutto il dolce. Oppure si possono fare poi rimangono friabili oppure diventano morbide? Diventano morbide, sì, però il trucco sta nel non mettere troppo. Bisogna mettere anni di esperienza. Per quello che allora si prende la rosa, bisogna immaginare quindi questa rosa, si prende da sotto, si gira, si capovolge e si mette nel vino cotto e poi si rigira così non diventa morbido, perché se diventa troppo morbido il dolce non è riuscito. E bisogna mangiarlo subito in modo che rimanga. No, non bisogna mangiarlo subito, perché dopo si riempiono delle coppe, si fanno tutti gli strati dentro la coppa e si lascia, perché durante tutto il periodo delle feste si mangiano a ogni pranzo, insomma ogni volta che ci vengono delle persone a fare gli auguri si offrono queste cartellate. Questo è proprio il rito. Facciamoci un giretto. Scusa, vogliamo ridire un po' gli ingredienti di questo. Allora, adesso mi prendi un più po' o meno, no, più o sì, meno, sì, non sì. Quelli precisi e neanche le dosi, ma più o meno sì. Quali sono gli ingredienti più importanti. Allora, farina bianca, e uova, zucchero e acqua. Quindi non c'è latte? No. E non c'è neanche olio? Forse l'olio sì. Nell'olio. No, sono fritte nell'olio, però nell'impasto non c'è niente. L'impasto è molto, molto semplice. Va bene. E in effetti il gusto assomiglia un po' a questi dolcetti che stiamo mangiando stasera, che si richiamano? Ferratelle. Le ferratelle, sì. Un gusto un po' neutro. In Abruzzo dipende, perché da me si chiamano pizzelle, comunque sempre, sono sempre le stesse. La grande diatriba fra noi e voi, perché poi fra voi sono pizzelle, sono morbide, sono alte, o sbaglio? No, no, sono anche sono sottili, se, vabbè, sono comunque. Pizzelle, vabbè. Va bene, quindi andiamo avanti, Cristina. Sì, allora, questo è il primo, poi abbiamo le altre che si chiamano cuscinetti, cuscinid, in dialetto. E sono i cuscinetti di Gesù Bambino. Sarebbe il cuscino che si... i cuscinetti sul quale si fa dormire, si farebbe dormire Gesù Bambino, perché lui quando è nato stava nella stalla. Allora si è, la tradizione popolare ha inventato questo dolce. E allora questi cuscinetti sono ancora una volta, c'è una pasta simile a quella delle cartellate, e sono ripieni di pasta di mandorle, cioccolata, uva passa, vino cotto. Questi sono, mi sembra, gli ingredienti di base. Poi si possono aggiungere varianti. Poi si possono personalizzare, sì, diciamo così. Sì, non è un cuscino, un materasso. Quindi si fa una specie di raviolo. Si stende la pasta, si fa una specie di raviolo, si taglia e ancora una volta si frigge. Si frigge, tutto leggerissimo. Sì, sì, sì. A Natale si può. Però. Sì, sì, no? Quindi questi sono altri. Poi c'è un altro dolce particolare che si chiama susmid. E non, in italiano non si traduce. Si chiama susmid e si fa con la farina, con il cacao in polvere, uova, zucchero e questo benedetto vino cotto. Cioè praticamente a Natale si prende sempre il vino cotto. Sì, sempre. E quindi il risultato è una specie di torta al cioccolato, che però ha un gusto diverso perché c'è proprio questo ingrediente un po' aspro, il vino cotto. Si fa cuocere al forno e si taglia a quadratini e si serve così a quadratini. Ma anche da voi, per esempio, noi in Italia abbiamo l'usanza che il 24 mangiamo di magro, giusto? Sì, non è in Italia, aspetta, siamo tutte italiane, magro. Non si mangia carne, non si mangia di lì a dire che si mangia magro. No, vabbè, togli il grasso. No, diciamo, mangiamo pesce e tutto quanto, perché negli altri paesi invece c'è proprio il cenone del 24, no? Anche da voi si mangia pesce? Sì, da noi anche si mangia pesce, la tradizione è di e mangiare il pesce. E c'è un piatto particolare per il 24, la sera del 24? Allora, mi sembra, no, devo dire che nella mia famiglia non abbiamo una tradizione particolare del 24, quindi io non lo so. No, però sempre pesce. Mi sembra che il capone è il pesce più, cioè è quello che si usa il sempre. Il capitone, forse. Ah, il capitone, ecco, vedi, non so neanche come si chiama. Il capone è un volatile, vabbè, ma non fa niente. Come al solito. Però noi diciamo, a casa nostra facciamo sempre delle ricette nuove. Per noi sì, la festa significa ogni volta scoprire e trovare una ricetta particolare. Quindi non sono molto ferrata, tranne i dolci. Va bene. Voilà. E tu stavi dicendo, Fiorella, da noi in Italia. Cristina ti stava parlando dell'Italia? Forse volevi dire da noi a Roma o da noi all'Aquila? No, no, no, no, io ho fatto la differenza fra noi in Italia rispetto agli altri paesi. E, ah, ho capito, dunque, scusa. Visto che si mangia pesce, volevo sapere, perché ogni regione ha la sua, il suo piatto caratteristico, il 24, o al limite anche ogni famiglia, no? Ma più che altro direi ogni famiglia. Sì, secondo me sì. Noi abbiamo i spaghetti al tonno, non lo so. No, no, per noi nelle Marche lo spaghetto al tonno è light, si mangia a pranzo il 24. Ah sì? Sì, sì, è una cosa light. E quindi passiamo poi, la cena si fa... giusto per intendere. Scusate, tipo con la frittura. Gli spaghetti o i fedelini? Brava. No, io non conosco. Voi Cristina e Anna Maria non sapete neanche che cosa sono i fedelini. I fedelini? No. Ma forse li chiamiamo diversamente. Ragazze. Sono degli spaghetti sottilissimi. Si chiamano anche capellini. No, fedelini. No. I fedelini sono ancora più sottili. Fedelini e capellini. Sì, sono, vabbè. Se voi cercate la pasta abruzzese, di cui non voglio dire il nome per non fare pubblicità, vedrete che ci sono anche i fedelini e che si mangiano effettivamente alla vigilia di Natale con il tonno, giustamente. Anche te? Anche sì, te? Sì, sì. No, però appunto... Ma voi non venite dalla stessa regione? Mia mamma è abruzzese, dunque io sono di Roma, però mia mamma è abruzzese naturalmente. E poi no, non veniamo dalla stessa regione perché lei è della montagna e io sono del mare. Ah sì, ho capito. No, meno male che diverse. Non c'è nessun altro pugliese in questa stanza, se no vedresti che differenza. Vabbè, allora invece da noi si fanno i celli pieni, si chiamano, che sono dei biscotti riempiti di un impasto fatto di uvate, in dialetto, che sarebbe la marmellata d'uva. Marmellata d'uva mescolata con pezzetti di mandorle, di noci, diciamo di frutta secca, ma appunto tipo mandorle e noci, non l'uvetta o cose del genere, il cacao anche, e questo impasto è il ripieno di un dolce che è fatto a forma tipo di raviolo. Ed è un impasto fatto col vino bianco. Vino bianco, olio, farina e zucchero, anzi neanche tanto zucchero. E quindi poi si mette al forno, ovviamente nella tradizione si friggevano questi biscotti, però adesso non si friggono più, si fanno al forno, però appena si tirano fuori, che sono caldi, gli si mette sopra lo zucchero, che quindi rimane appiccicato, perché in realtà nell'impasto non c'è lo zucchero e nell'impasto non ci sono neanche le uova, quindi c'è veramente solo farina, vino bianco e olio. È molto, diciamo, semplice. Poi certo c'è questo ripieno fatto di marmellata, di noci, di mandorle, di cacao, quindi diventa molto ricco. E questi si fanno a Natale, però certo al giorno d'oggi poi uno li trova sempre in qualsiasi stagione. Ah, ma diciamo all'origine sono dei dolci, sì, sono dei dolci di Natale. E vabbè, i dolci di Natale di cui parlavo prima non si trovano nel resto dell'anno. Non si trovano proprio. Si fanno solo in quel periodo là. È bello che almeno li associ al Natale. Ma in Italia l'abbiamo questa tradizione, abbiamo delle cose che sono tipicamente per Natale, tipicamente per Pasqua. Sì, sì, certo. Carnevale, non ne parliamo. Certo. E guardando un attimino sulle tradizioni dei dolci, la prima cosa che viene l'occhio è nel nord Italia c'è la tradizione del panettone e poi Verona, dunque mentre più si scende, per esempio già iniziando dalla Toscana dove abbiamo i ricciarelli, per poi scendere nel Lazio tutti questi impasti con uvetta, noci, cambia completamente la maniera di fare i dolci, no? In quel periodo per noi è veramente una ricchezza, cioè di ingredienti, il vino, il mosto, la frutta secca, per esempio anche il nostro torrone è completamente differente dal torrone di Cremona, il torrone siciliano che è ricchissimo con i pistacchi, con zucchero, quello abruzzese, non facciamo nomi, di una famiglia che è delle sorelle che fa un ottimo torrone, ed è morbido, cioccolato con queste nocciole, quello è. E per noi appunto è anche diverso anche il torrone da mangiare a Natale, non è tanto quello di Cremona, che mi ricordo una volta, non so se anche voi vi ricordate, ma abbiamo visto che c'è un salto generazionale qui di ricordi, era quello duro, bianco, ricoperto di cioccolato, giusto? E se no era da noi nel centro, non so se anche da voi nelle Marche, il pan pepato, sì. Che io e mio nonno sdentato gli davamo sempre sto pan pepato, mi fa ma tu scherzi sempre, però era buono, per me quello era la ricchezza, era la bellezza del Natale, ecco. Mentre mi pare che a Milano è poi diventato invece il panettone un qualche cosa nazionale. Sì, è diventato anche per noi italiano. È diventato italiano, però noi avevamo tantissime altre cose più. Forse. Io non ricordo di avere dei nelle Marche, ma forse non li ricordo io dei dolci tipici per Natale, non lo so. In genere noi rimaniamo sul classico panettone Pandoro con tutte le varianti possibili, immaginabili, i torroni. Cioè, però non mi pare, perlomeno non in casa mia, non in casa. Il panforte. Il bustringo. Questo non è italiano. Bustringo, sì, non lo so. Marche, si chiama anche frustigno, frustengo. La frostenca. Allora la frostenca. Però non saprei dire, cosa c'è dentro. È un recupero, il pane raffermo. E dunque, però non ci sono noci, mandorli, fichi secchi, pane, punto raffermo, frutta candita, uva, sultanina e mosto cotto. pare che sia proprio il comune denominatore. Sì, è proprio penso che sia legato al periodo dell'anno, insomma, perché sì, dopo la vendemmia sì, c'è il vino e si cominciano a fare il vino cotto. Che vi sta venendo una voglia di fare, di mangiare, ma c'è un altro dolce di cui non ho parlato prima, che si chiama le sfogliatelle. Queste le avete sentite, no? Sfogliate? Come quelle napoletane, no? No, no, no, sono diverse, sono una pasta ripiena di, ancora una volta, mandorle, cioccolato, noci, farina. Ecco, questo ripieno si fa un rotolo e poi questo rotolo cilindrico si arrotola come una ruota. Quindi queste sfogliatelle sono delle ruote che si cuociono al forno. Un altro dolce tipico, no, con lo sopra si mette lo zucchero. E poi si mangia un pezzettino piccolo perché è così ripieno che non ce la fai. Noi abbiamo più abbiamo questo panettone, per esempio in Francia, e qui è il tronchetto di Natale, no? Giusto? Sì, la bûche de Noël, che ricorda l'albero di Natale. Burrosissimo. Sì, poi sì, la bûche de Noël lo dovremmo avere noi perché il Natale è un'origine pagana, giusto? E si è deciso di festeggiare perché all'epoca romana il 25 si festeggiava il dio sole, giusto? Mm-hmm. Ecco, dunque, e si accendeva una bush del caminetto, giusto? Un tronco. Forse anche da questo che deriva, come veramente come ascendente pagano, come la bûche, il dolce, la bûche de Noël. Sì, sì. Sì, sì, perché la bûche è proprio il dolce, è fatto a forma di tronchetto. Sì, ma molto probabilmente deriva da questa origine, da questa tradizione del mettere i tronchetti, Di legno nel fuoco. Sì, forse. Allora, volevo mandare in onda, sì, ha telefonato. Qui stavamo facendo una chiacchierata come a casa. Sì, volevo mandare in onda un signore, un fornaio di Scarbec che si chiama Jean-Pierre Durieux, che ha detto che lui fa il torrone e che è la sua ricetta preferita. Quindi, e ci sta ascoltando? No, ci sta ascoltando evidentemente, perciò ci ha chiamati, soltanto che non sono riuscita a farlo ascoltare, a passare in radio, quindi lo salutiamo. Buonasera signor Jean-Pierre, grazie della telefonata. E sì, comunque insomma il torrone ci piace, l'abbiamo capito. Grazie ancora. Dunque, approfitto anche per zittirvi un attimo. No, scherzo. No, farei ancora un brano musicale. Ci ritroviamo fra pochissimi minuti. Mi raccomando, rimanete con noi, con I Colori dell'Anima, fino alle 22. Allora, eccoci proprio alla fine della trasmissione di oggi con Anna Maria, Cristina e Fiorella. Allora, abbiamo definito i colori, abbiamo parlato un po' di ricette, soprattutto di ricette di dolci pugliesi, abruzzesi, dolci marchigiani non esistono, vero Anna Maria? Sì, ma ci sono senz'altro, sono io che non sono preparata. Vabbè. Non li so fare, che devo fare? Neanche li so mangiare. Ma quelli ruandesi neanche conosci? Beh, in Ruanda no, tanti dolci non è che se ne facessero. Le banane fritte conosco, sono buonissime, ma va non bene. È la stessa cosa. E allora invece Fiorella aveva alcune leggende, giusto? Presente. Sì, qualche cosa che noi usiamo durante la festa di Natale, le ghirlande, le palline, perché hanno un loro perché, giusto? Per esempio le ghirlande di Natale, a parte che la ghirlanda era fatta di alloro, dunque era data sempre al vincitore, a qualcuno che era importante, no? Perché la ghirlanda? Ma soprattutto quei festoni dorati o argentati che lo mettiamo intorno all'albero di Natale. La leggenda narra che Gesù bambino andò a benedire gli alberi di Natale, ma entrò in una casa in cui c'erano molte ragnatele. Li benedì e queste ragnatele diventarono queste ghirlande dorate che noi mettiamo intorno all'albero di Natale. Capito? Tutto ha un senso, come le campane. Perché si suonano le campane? Quando nacque Gesù bambino, tutti quanti andarono a trovarlo e c'era un bambino cieco sulla strada, e siccome non capiva che c'era tutto questo trambusto, però nessuno gli dava retta, e non capì che c'era il bambino, però nessuno lo volle portare, dare spiegazioni. Durante la notte sentì la campana di un gregge, di un gregge che era vicino la casetta di Gesù Bambino. Dunque lui, seguendo il rumore delle campanelle, arrivò anche lui a salutare Gesù Bambino. Dunque, l'albero di Natale, perché l'albero di Natale? Si racconta la leggenda, sempre nel nord Europa, verso la Germania, che un bambino andò a cercare l'albero di Natale, un albero nel bosco, si perse durante la notte e si mise sotto un abete per essere riparato. L'abete ebbe compassione di questo bambino, siccome nevicava, dunque abbassò i suoi rami fino a coprirlo. La mattina dopo, tutte le persone che sono andate a cercare il bambino lo trovarono sotto questo abete coperto di neve, ma visto che lì faceva freddo, questo albero di Natale, questo abete, era diventato scintillante perché la neve era diventata ghiaccio. Il bambino sano e salvo, però intorno a questa cosa fiabesca. Dunque si allestisce anche, si abbellisce l'albero per ricordare questo spettacolo molto bello che hanno visto le persone andando a ritrovare il bambino. Le palline di Natale, anche questo, un giocoliere che voleva andare a salutare Gesù Bambino, non aveva niente da portargli, e però lui lavorava, giocoliere per strada, faceva queste, come dire, queste, giocava con queste palle nelle mani, no? Si narra la leggenda che Gesù Bambino fece il suo primo sorriso guardando questi giochi. Dunque, per ricordare il primo sorriso di Gesù Bambino, si mettono le palle all'albero. Ultima, i bastoncini di zucchero, quelli che noi... Anche questa è una tradizione molto, molto germanica, no? Sì. Dunque, il bastoncino di zucchero. La leggenda narra che un dolciaio lo creò proprio per ricordare Gesù alle persone. E questo bastoncino ha il suo simbolismo. Il caramello di cui è fatto il bastoncino, che è molto duro, rappresenta Gesù come la roccia solida su cui sono costruite le nostre vite. La forma a J lunga sta per Jesus, Gesù. Dunque, poi, e anche come ricorda anche la forma del pastore, cioè pastore per le greggi, come Gesù, come vescovo. Il colore bianco rappresenta la purezza, senza peccato. Le strisce rosse grandi rappresentano il sangue di Cristo. Le strisce sottili, invece, sono i segni lasciati dalle frustate che Gesù ricevette sulla croce. Il sapore di menta piperita ricorda il sapore dell'issopo, che è una pianta aromatica usata nel Vecchio Testamento per purificare. Ora sappiamo tutto. Tutto no, ma comunque quasi tutto. Per ogni cosa c'è un significato preciso. Sì, sì, perché noi diciamo, ma perché mettiamo tutte queste cose sull'albero, eccetera, eccetera. È un qualche cosa, c'è una tradizione, no? Anche se poi siamo abituati, almeno io mi ricordo mia nonna che io vedevo ancora quest'albero di Natale che mio nonno andava a prendere al monte, lo tagliava lui, e ci mettevano le candeline vere e tutte di mandarini, pochissime palle, perché non è adesso come adesso, sai, una volta erano di vetro, si rompevano, tanti mandarini. Dunque immaginati questo albero di Natale con l'odore ancora del bosco di pino e con questo odore di mandarini, era una strepitosa. Però questa tradizione in effetti è molto nordica, dei paesi appunto di Belgio, ma anche Olanda, Danimarca, eccetera. Invece penso che in Italia la tradizione più propria all'Italia sia quella del presepe. Chi lo trova, sì. Che... Penso che, mi sembra, insomma, da quello che ricordo, che l'albero di Natale sia venuto adesso, insomma, più recente nelle famiglie italiane, di fare l'albero e il presepe. Ma non so se ti ricordi, c'era... De Crescenzo, il filosofo scrittore napoletano, che diceva che l'albero era del nord Italia e il presepe era del sud Italia, quindi lui faceva, ma probabilmente è così che l'albero di Natale, magari, che ne so, nella zona in Lombardia è più conosciuto rispetto è una tradizione più nordica. Noi abbiamo più la tradizione del presepe, quindi ricreare questo tutto il paesaggio con le pecorelle, con il fiumicello, Posso, vi ricordate, sempre salto generazionale, l'ultimo, il Natale in casa Cuppiello, ve lo ricordate? Sì, certo. Ecco, anche perché purtroppo è morto da poco Luca De Filippo. Il papà dice al figlio: ma a te, ti piace un presepe? No, non mi piace, voglio a zuppellato. citazione. Sì. No, che dicesse voglia suppellato, non me lo ricordavo, però mi ricordavo che diceva sempre no, non perché mi piace, ma ti piace, sì. Era lui che era il figlio, che non faceva niente, detto, no, voglia suppellato. Ma infatti in quella famiglia si faceva il presepe, ma non, presepe non c'era l'albero. Non c'era l'albero napoletano. Il presepe napoletano. Sì. Va bene, allora, siamo veramente arrivati alla fine della trasmissione di oggi. Io comincerei con il ringraziare te, Fiorella. No, sono io che ringrazio voi, faccio gli auguri carissimi di un bellissimo Natale, di tutto quello che volete, che Gesù Bambino vi illumini la strada e tutto ciò che volete. Grazie mille, grazie Fiorella. E grazie a voi che siete sempre molto cari. Grazie a te Cristina, grazie che sei a te, venuta Rosanna. Come ospite, sì, mi della dato nostra trasmissione. Questa ebbrezza dell'essere ospite per una volta. Sì, grazie, tanti auguri a te, a voi che sì. siete qui in studio con noi, con me, e a tutta l'equipe dei Colori dell'Anima. Certo, quindi a Tiziana, Rossella, Leandro, Angelo, Carla e poi a tutte le persone passate, che ne so, a Barbara, a Monica che non sono, che ci hanno abbandonato in radio, ma che insomma penso che col cuore staranno sempre con noi, quindi sì. auguri a tutti, sì. Auguri ad Anna Maria. Auguri anche a te, anche a voi tutte, grazie, io ho imparato un sacco di cose stasera. Anch'io. Magari le metterei in pratica i dolci, che ne so. No, no, vado da Cristina, ho deciso. Andiamo. Bene, va bene, e io vi ricordo invece che I Colori dell'Anima torneranno in diretta lunedì 4 gennaio. Anna Maria, tocca a noi, Prontissima. Pronta? Prontissima. Va bene, d'accordo. Mi preparerò anche, prometto. Buon Natale quindi e buon anno a tutti, grazie a tutti i radioascoltatori. Vorrei ringraziare anche una persona che non si sente mai, che si chiama Pierre, che sempre gentilmente accompagna la nostra Fiorella, quindi buon Natale anche a Pierre. Buona serata a tutti, a presto, ciao. Ciao, buon Natale, buone feste, ciao.